Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parliamo di un argomento molto particolare. Parliamo dei prodotti gluten free, ovvero sia quei prodotti che non contengono glutine, e diciamo che sono prodotti che fino a qualche tempo fa erano, diciamo, assolutamente retaggio solo di coloro che soffrivano di intolleranza oppure di celiachia. Da un po' di tempo però questo mercato sta crescendo veramente fortissimamente e sta crescendo anche verso altri tipi di consumatori. Secondo calcoli, su 240 milioni di euro, appunto, che è questo mercato, un terzo addirittura viene consumato da chi non ha intolleranze. Allora andremo un po' a vedere non solo le ragioni, ma andremo a vedere anche questo mercato che sta appunto crescendo. Molti prodotti stanno entrando sul mercato, e non solo pasta e pane, ma cioccolato, birra, dolci di ogni genere, quindi sicuramente un mercato da verificare con grande attenzione, anche perché il gusto si sta sempre di più affinando. Numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo a fare un giro proprio andando a vedere il mercato, e cominciamo a parlarne con Anna Verga, che è responsabile di alcune linee da marchio Coop, tra cui appunto quella dei prodotti senza glutine. Buongiorno Verga. E io volevo subito chiedere, perché la Coop ha sentito questa esigenza? C'è una grande domanda di mercato, appunto, cui far fronte? Sì, certo, tra l'altro questa esigenza la Coop l'ha sentita molti anni fa, perché parliamo appunto degli anni intorno al 2004-2005, quando ancora questo mercato non era così sviluppato, così importante, ma anzi la grande distribuzione aveva a quel tempo un ruolo assolutamente, uno spazio assolutamente rilevante rispetto al canale farmacia. Però Coop ha sentito l'esigenza, proprio in relazione a una domanda crescente da parte di propri consumatori celiaci, di trovare sugli scaffali prodotti dedicati che non fossero quei pochi prodotti allora presenti di marca, che avevano anche prezzi assolutamente proibitivi. E quindi per rispondere a questa esigenza Coop ha deciso di farlo attraverso il proprio prodotto a marchio, lanciando una linea di prodotti dietetici notificati al Ministero, e quindi presenti nel registro nazionale ed erogabili gratuitamente a chi dispone del bonus rilasciato al servizio sanitario. Quindi diciamo una concorrenza con le farmacie, perché fino a poco tempo fa diciamo che questi bonus erano solamente spendibili in farmacia. Sì, esatto, infatti il lancio di questa linea sostanzialmente ha fatto un po' da apripista. Primo perché ha creato le condizioni perché questo mercato si andasse allargando in grande distribuzione, e la grande distribuzione arrivasse a pesare quello che oggi rappresenta, quindi oltre un terzo di quanto è venduto nel mercato senza glutine. E soprattutto ci fu anche la partenza di una sperimentazione in Toscana, parlo del 2005 quindi ancora, in cui grazie alla quale nei punti vendita Coop, con un accordo con la regione, cominciò quest'area test per provare a far utilizzare i buoni che il celiaco aveva a disposizione per fare la spesa direttamente nei punti vendita Coop. Senta, sperimentazione conclusa. Prego, la gamma dei prodotti ormai è veramente molto, molto vasta, non è più solamente riservata al pane e alla pasta. No, attualmente noi abbiamo 22 referenze e lavoreremo ancora per svilupparne di nuove. Si coprono chiaramente i segmenti principali, sono pane, sostitutivi, pasta, ma ci sono anche pizza, e dolci, dolciario, quindi chiaramente si cerca di dare un'offerta il più possibile variegata per chi deve quotidianamente sostituire con questi prodotti gli alimenti convenzionali. Bene, quindi diciamo che la Coop si è mossa in tempo, ma diciamo che ormai anche altri negozi, perché stanno nascendo anche dei veri e propri negozi specializzati su questo. Ciò significa veramente che il mercato è in grande crescita e c'è anche un affinamento del gusto. Bene, grazie ad Anna Verga della Coop, io passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti senza glutine. Sentiamo Luisa dalla provincia di Milano. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Senta, io volevo dire che pur non essendo celiaca uso solo la pasta di mais, perché è più digeribile, assolutamente non gonfia, non ingrassa, è molto più saporita. Ha solo un difetto, che costa più del doppio, ma pazienza. Ecco Luisa, questo mi permette di, diciamo, sfatare questo mito della cura dimagrante, della dieta senza glutine, leggendo un noto esperto, che è Andrea Ghiselli, ricercatore del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Roma, che dice: il glutine è una proteina presente in molti cereali che, come tutte le proteine, ha un forte potere saziante, per cui al contrario può aiutare a perdere il peso. E mangiando prodotti senza glutine non si perde peso, tanto più che il riso, spesso usato dai celiaci invece della pasta, ha un indice glicemico superiore alla pasta. Bene, anche perché sta infatti imperversando, specialmente negli Stati Uniti, con molti personaggi famosi, appunto il senza glutine come dieta dimagrante. Ma torniamo diciamo ai prodotti e torniamo alla farina, perché sicuramente il problema principale è la farina. Allora abbiamo con noi Piero Gabrielli, che è direttore marketing del Molino Quaglia. Buongiorno Gabrielli. Buongiorno Davide, buongiorno. Ecco, c'è un grande movimento tra, diciamo, i molini nel ricercare appunto di dare al mercato un qualcosa di appunto di senza glutine, quindi di poter permettere pane, pizza e tutto il resto. Ecco, a che punto siamo, Gabrielli? A che punto siamo? Qui il problema è prevalentemente culturale, perché se il celiaco non mangiasse pane, pizza e pasta o dolci a base di farina, potrebbe avere un'alimentazione tutto sommato identica a quella di chi non è celiaco. In realtà noi abbiamo una tradizione fortemente incentrata su questi prodotti, per cui la soluzione che sul mercato è presente e viene da tanti produttori è quella di dare delle miscele di sfarinati. Per esempio la signora prima parlava del mais, il mais è molto presente in questi sfarinati così come il riso, che però hanno un difetto: al di là della capacità di essere impastati e di lievitare molto ridotta rispetto al grano, aprono però a chi ne fa un grosso uso le porte dell'indice glicemico alto e del diabete, perché hanno un carico di carboidrati che diventano zuccheri che è altissimo. Noi stiamo seguendo un'altra strada recentissima, perché abbiamo avuto contatti frequenti con medici che si occupano di questo aspetto, e quindi stiamo proponendo una serie di prodotti che derivano da cereali e legumi germinati. In questo modo si riesce a ridurre moltissimo l'indice glicemico del prodotto finale e oltretutto a salvaguardare anche il gusto, riportandolo alla tradizione. Bene, grazie di questa delucidazione. Comunque rimanga con noi. Sentiamo Riccardo da Como, radioascoltatore. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Davide. Prego. Grazie per il suo costante contributo al godimento. Bene. Senta, per quanto concerne il discorso dei prodotti senza glutine, ho degli amici, e al di fuori di quello che può essere tutti i discorsi di positività, il problema fondamentale, che secondo me è assolutamente una speculazione, i prodotti senza glutine hanno un costo assolutamente ingiustificato. Oggi pone chi ha necessità nelle condizioni veramente precarie dal punto di vista proprio economico. Naturalmente chi si può permettere, per l'amore di Dio, godono anche a comprarseli. Però io, la mia opinione, che assolutamente ha... Riccardo, guardi, rimanga con noi, perché abbiamo un produttore di pasta, il produttore di pasta d'Alba. Buongiorno Dario Mainardi. Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Mainardi, è vero che costano così tanto i prodotti gluten free? Sì, un po' sì, perché si trova sul mercato, secondo me non si trovano farine ancora diverse dal solito mais e riso di cui ha parlato prima il vostro ascoltatore prima. Noi abbiamo cercato di variare questo tipo di farina ricercandone altre diverse dal mais e dal riso. E facciamo della pasta di miglio, di quinoa e di amaranto, che sono farine senza glutine e farine non altri condensati. Ho capito. E, Gabrielli, allora è vero questo, che si trovano difficilmente? Questo è vero. Io infatti credo che la scelta della persona che mi ha preceduto sia corretta, cioè il fatto di utilizzare delle miscele in mais, di riso, che sono chiaramente molto comode, portano ad avere proprio il problema di un carico di zuccheri troppo elevato, cosa che per esempio non avviene appunto con l'amaranto e con il miglio. Peraltro però vorrei dire una cosa a proposito del prezzo. Il prezzo effettivamente è molto alto, però il prezzo molto alto deriva da una produzione che è molto limitata rispetto al mercato enorme delle farine e che oltretutto richiede molta manodopera, per cui sì, effettivamente in relazione a quello che c'è nel sacco il prezzo è alto, ma produrre quel sacco costa veramente tanto. Andiamo da un altro produttore di pasta, e devo dire che questa è la pasta di Gragnano, è l'unico produttore a Gragnano appunto che ha una pasta gluten free. Buongiorno a Ciro Moccia della Fabbrica della Pasta. Buongiorno Ciro. Buongiorno a lei, buongiorno dal Gluten Free di Brescia. Senta Moccia, ma lei produce 40 formati appunto gluten free, è così? Ho recepito bene? Al momento solo 40 formati, per gennaio arriveremo a 50. Formati molto particolari, stile Gragnano, di cui due sono nostri brevetti, la Caccavella, che è il formato monoporzione più grande del mondo, e adesso è pronta anche per i celiaci. E quindi addirittura, ma c'è una gamma veramente notevole, perché molti diciamo che soffrono appunto di intolleranze o celiaci diciamo lamentano questa carenza. Quindi Moccia, lei ha trovato un mercato credo abbastanza importante, le sta crescendo il mercato, immagino? Sì, sta crescendo molto. Il nostro slogan è finalmente, perché tutti quelli che assaggiano la nostra pasta o vedono la nostra gamma dicono finalmente possiamo scegliere fra tanti formati belli, oltre ad essere buoni, anche emozionali. Quindi fortunatamente quando mangiano il nostro prodotto poi tutti ci scrivono e ci ringraziano. Per noi è un momento emozionale massimo sapere che il celiaco ci ringrazia e dire finalmente una pasta a stile Gragnano. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Giampaolo dalla provincia di Ferrara. Buongiorno Giampaolo. Buongiorno. Prego. Niente, siccome il prodotto gluten free ultimamente è quasi una moda, perché bisogna distinguere la vera necessità, cioè il celiaco, e le finte o pseudo intolleranze. Non bisogna scordarsi che comunque il glutine è un pool proteico necessario per rendere la pasta gradevole, evitante e quant'altro. Quindi si confonde ciò che è il senso di sazietà con ciò che è il gonfiore addominale, quindi molte autoprescrizioni, cioè nel senso di scegliere questi tipi di pasta, a mio modesto parere, anche perché faccio questo lavoro da una vita, cioè il dietista, non sono giustificate, ecco, quindi sarebbe opportuno non confondere ciò che è una moda con ciò che è la realtà, perché per poter poi diciamo compensare alla mancanza di glutine molto spesso, e l'ha anche detto chi è tenuto precedentemente, vengono aggiunte sostanze che non sono poi così certo tanto benefiche come spesso si dice. Ecco. Grazie Giampaolo. Sentiamo Margherita dalla provincia di Brescia. Buongiorno Margherita. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Mi dica. Io sono qui al Gluten Free Expo di Brescia. C'è appena stata l'inaugurazione, proprio pochi minuti fa, c'è un'affluenza incredibile, nel senso che alle 8 del mattino c'era già la coda fuori. Bene, andiamo al dunque entrare. Però, andiamo al dunque. C'è una domanda allora, da fare. Come? Ha una domanda da fare? Ma diciamo che più che una domanda, io volevo appunto informare tutti i celiaci che noi invece non siamo produttori di alimenti senza glutine, ma siamo la prima web TV al mondo dedicata al gluten free. Bene, grazie qui dell'informazione. Allora voglio tornare un secondo a Dario Mainardi, che è produttore di pasta d'Alba. Senza Mainardi, i vostri canali di distribuzione e di vendita sono le farmacie o sono anche, diciamo, abbiamo sentito supermercati e altri negozi? No, noi principalmente riforniamo, per il momento riforniamo i negozi di prodotti biologici. E abbiamo moltissime richieste per appunto di farmacia, stiamo arrivando adesso in questo mercato, sia delle farmacie sia dei vari negozi che voi avete parlato, negozi specializzati per il gluten free. Ho capito. Sentiamo Margaret da Bolzano. Buongiorno Margaret. Buongiorno, io sono medico di Bolzano, sì, in servizio da quasi 40 anni nella sanità pubblica, e curo prevalentemente diabetici e malattie metaboliche, cioè mi occupo di terapia nutrizionale. Allora, ci sono delle moda intolleranza al glutine, per il momento va molto quello al lattosio, e c'è da dire di 10 cosiddette gente che si crede intollerante, con l'analisi scientifica in ospedale uno risulta veramente intollerante. Come una signora prima, le signore sovrappeso sperano in un'intolleranza, ma l'intollerante prima della diagnosi è sempre sottopeso, denutrito, perché se mangia 5 panini non assorbe 5, ma ha diarrea, mal di pancia, eccetera. E c'è un enorme giro di affari con tutti i prodotti. Beh, certo, questo abbiamo dato anche il dato. Abbiamo invece dato... i signori industriali dell'alimentazione, abbiamo un buco enorme del mercato, ci mancano latticini poveri di grassi e poveri di sale. Beh. E oggi ipertensione e malattie cardiovascolari colpiscono già i giovani. E in Italia c'è ancora la legge del 29, che nessuno dei politici che si occupano di sanità ha scoperto questa legge. Il caro Mussolini, che allora era molto avanzato nella legislatura sanitaria, eccetera, proibiva i formaggi magri, perché allora il problema era contrario. Vendevano i magri per grassi. Bene, grazie della sua delucidazione, grazie, importante. Ciro Moccia, una cosa velocissima, anche lei dove distribuisce, attraverso farmacie o attraverso altri, diciamo, altri negozi? Noi siamo presenti sia in molte farmacie e molti negozi specializzati per la vendita del senza glutine. Ho capito, bene, grazie a Piero Gabrielli, Dario Mainardi e Ciro Moccia. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti senza glutine. Bene, abbiamo con noi, abbiamo visto appunto la pasta, ora vedremo tanti altri prodotti, e ci sono anche prodotti molto, molto singolari, molti, diciamo, intelligenti, come per esempio le farinate, il castagnaccio, le farine di nocciola e di mandorle e via di seguito, e le produce Bruno Ghignone, che tra l'altro ha anche una serie di ristoranti senza glutine. Buongiorno Ghignone. Buongiorno a lei, Paolini. Buongiorno. Lei è passato da questo Tantì, e io l'ho sentita tanti anni fa, questa farinata, quindi l'ha portata, l'ha cominciata a produrre senza glutine. È così? Sì, diciamo che insomma, tutto deriva da una passione per diciamo, i cibi da forno, e quindi ci siamo buttati sulla farinata, che fra l'altro al mio paese, che è Nizza Monferrato, è piatto tipico. Dopodiché le imprese devono crescere, quindi abbiamo costruito nuovi prodotti, sempre insomma legati al territorio, quindi abbiamo usufruito di altre farine, tipo la farina di castagne, la farina di nocciole, di amaretto armellina, abbiamo un po' diciamo copiato l'amaretto di Monbaruzzo. Ecco, sì, prego. No, prego, finisca questo poi. No, dicevo che appunto, poi abbiamo anche quella di ceci, abbiamo insomma trovato delle ricette che già erano esistenti, le abbiamo un po' modificate, anche perché il problema della celiachia è un problema che si amplifica di giorno in giorno, e quindi diciamo cresce in maniera esponenziale, quindi noi ci siamo impegnati un attimino anche a produrre preparati da fare a casa, per dare più alternativa, diciamo, certo, a questo problema. Ecco, rimanga con noi, sentiamo Ezio da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Ezio. Buongiorno. Prego. Ascolti, io sono un celiaco, è vero che i prezzi sono piuttosto alti, perché ho trovato del pane al supermercato, pane grattugiato a 24 euro al chilo, oppure altre cose a 4,20, 150 grammi. Ho trovato anche in farmacia del pane a 10 euro al chilo, quindi i prezzi sono effettivamente cari. Senta Ezio, lei compra regolarmente in farmacia o anche in altri negozi? Sì, in farmacia, generalmente in farmacia. Perché non è che compri, io ho il buono dall'ASL. Ho capito, quindi lei va sempre in farmacia, ma ora ci sono anche altri negozi, come diceva prima la Coop ed altri supermercati, che sono abilitati, diciamo, a scontare il buono. Sì, è vero, però non mi sono ancora abituato e quindi non sono ancora andato negli altri negozi. Ho capito. Bene, grazie Ezio. Sentiamo Elisabetta da Milano. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno, salve. Dunque, io avevo sentito prima l'intervento del signore del Mulino Quaglia. Sì. Io con altri soci ho un piccolo laboratorio di pasticceria fresca senza glutine a Milano. E ieri, durante un incontro alla Brixia, all'Expo di Brescia con l'AIC e altri laboratori, si parlava del problema di trovare delle materie prime realmente certificate a dei prezzi civili, anche su piccole quantità, e in grado di soddisfare magari una sorta di consorzio di altri laboratori in tutta Italia. E questo problema ieri era stato sollevato dalla titolare delle Cose dell'Altro Pane, che è stato la prima pasticceria, credo, in Italia di prodotti senza glutine. Allora lanciavo, un appello, certo. Ma lei ha detto una cosa che ho sentito anche come accalcato, ha detto realmente certificati, perché vuol dire che sul mercato ci sono molti prodotti che non sono realmente certificati? Dire che la questione della certificazione non è sempre compresa fino in fondo, perché per il problema della celiachia le dosi di glutine che possono creare problemi sono talmente minime che a volte anche un produttore stesso non si rende conto fino in fondo di quanto si debba evitare il contatto. Il contatto può avvenire, non so, nei magazzini, può avvenire certo, in mille modi diversi. Lei ha perfettamente ragione, cioè il problema di fondo molto molto molto forte, però speriamo col tempo, con la crescita, vediamo anche di interesse, che ci sia anche una chiarezza su questo. Ma ora voglio andare a Londra, dove è Marilena Colussi, una ricercatrice socio alimentare sempre attenta a questi problemi. Marilena, perché questo mercato sta crescendo, diciamo, anche fuori di chi ha bisogno di questi prodotti? Un radioascoltatore ha scritto, secondo me non è corretto, dice cresce semplicemente perché anche i familiari dei celiaci e degli intolleranti finiscono per consumare questo. Io credo sì, ci può essere questo, ma c'è anche un momento, io lo metterei tra virgolette di moda, di utilizzare questi prodotti, appunto, pensando al dimagrimento o ad altro. Tu cosa ne pensi? Ma penso che la conoscenza di questa problematica legata al glutine, legata alle sostanze fermentate, la conoscenza sta aumentando e anche la percezione di pericolosità sta aumentando, anche se non è sempre giustificata, ecco, anche da parte di persone che non sono realmente celiache o non hanno dei problemi di intolleranze alimentari. Quindi c'è un sentimento, una percezione di attenzione, ecco, di cautela nei confronti dell'accumulo, dell'eccesso di consumo di certe sostanze contenenti glutine. Ora, poi parlare di moda magari non è il termine più appropriato, ma certamente sai come succede, no? Nel sociale, quando partono certi fenomeni, le persone si interessano, si avvicinano, fanno delle esperienze, ecco, anche se poi magari non c'è realmente un problema o tantomeno una patologia per la quale dover ricorrere a certi tipi di alimenti senza glutine. Certo, il livello di sensibilità è aumentato anche perché dicono che il problema della gluten sensitivity, quindi delle legate alle infiammazioni, ecco, c'è tutto un campo in fase di crescita dal punto di vista della conoscenza e della sperimentazione, per cui alla fine i consumatori, che sono sempre più attenti, informati attraverso i vari mezzi di comunicazione, anche con il passaparola, ecco, si sono sicuramente avvicinati a questa tematica e stanno facendo delle esperienze, delle pratiche. Ma infatti ho detto moda, ti ho messo moda tra virgolette, intendendo costume, certo. Quindi. No, ecco, costume direi che è proprio il termine più adatto, ecco, volendo dare un'etichetta. Certo. Ma certamente, siccome è un argomento di cui si parla, se ne parla sempre più persone si interessano, si incuriosiscono, vogliono approfondire, a volte vogliono anche sperimentare su di sé gli effetti di una di una dieta che esclude magari Bene. Per un certo tempo, ecco, alimenti con glutine, e fanno delle prove certo, dei test, chiaro. Quindi diciamo, guarda, io non più di un anno fa avevo fatto proprio una domanda ad un campione esteso di popolazione italiana dai 18 anni in su per misurare, diciamo così, la notorietà del glutine e anche la percezione di pericolosità. Ebbene, un anno fa la notorietà già eravamo intorno all'80% e la percezione di pericolosità, ovviamente per un consumo diciamo prolungato, costante e eccessivo della sostanza, già dava un 20% di persone preoccupate della pericolosità del glutine. Bene. Bene, grazie a Marilena Colussi da Londra. Ora abbiamo con noi un produttore di cioccolato, Pierangelo Fanti della Andrea Steiner di Torino. Buongiorno Fanti. Di Massa Carrara, mi ricordo. Di Pontremoli. Senta Fanti, diciamo che il cioccolato sicuramente attira sul mercato, specialmente per chi magari per tanti anni non se l'è potuto permettere. È così? Certo. Sì, c'è da dire un po' di cose, perché il cioccolato di per sé non contiene glutine, perché effettivamente è un prodotto che è esente da questa sostanza. Cioccolato 100%. Ma, diciamo sì, il cioccolato come lo si intende, 100%, anche 80-70%, sì. Cioè non è importante, il cioccolato to cure è senza glutine. Sì. Il problema del glutine si verifica nelle contaminazioni, perché quando lei va a lavorare un prodotto vivo, è facile che possa esserci una contaminazione anche dallo stesso operatore che lavora nell'azienda, quindi è sufficiente che l'operatore si mangi un crack, gli rimanga la classica briciolina sul camice, ecco fatto che mi contamina tutto il prodotto, quindi la contaminazione è una contaminazione esterna, molto pericolosa e anche molto subdola, perché uno veramente può fare 100.000 prevenzioni, però può succedere. Allora, un'azienda come la nostra, chiaramente, che ha chiesto una certificazione abbastanza seria, perché noi abbiamo avuto la spiga barrata da LIKE, quindi l'Associazione Italiana Celiaci, e cosa fa? Fa ovviamente una grandissima prevenzione, abbiamo eliminato tutti i prodotti contenenti glutine dalla nostra azienda, quindi ci siamo dedicati solo ai free. E soprattutto tutti i lotti di produzione vengono analizzati, per cui noi abbiamo la certificazione di laboratori che ci hanno fornito direttamente questa associazione, che garantiscono la incontaminazione del prodotto, ed è l'unico modo serio perché ci possa essere una garanzia di purezza, ecco, di incontaminazione. Bene, grazie. Sentiamo velocemente Guido dalla provincia di Cremona. Buongiorno Guido. Sì, buongiorno. Volevo solo fare un appunto su una cosa, cioè questa crescita direi esponenziale di intolleranti sia al glutine che al lattosio, cioè la domanda è perché ci sono tutte queste, cioè negli ultimi anni continuano ad aumentare, è perché l'industria alimentare ci ha dato qualcosa da mangiare che magari nei metodi non era proprio, diciamo, buonissima, o forse perché stiamo mangiando troppo di un po' di tutto? Solo questo. Bene, interessante anche questo intervento. Maria Luisa dalla provincia di Milano, velocissima. Buongiorno, scusate la voce. Prego. Ma non ce la volevo semplicemente dire che a Milano esiste un primo bar per celiaci, dove si possono gustare anche pupicine, paste, brioche e fare le colazioni e tutto. Bene. Ed è a Bucinasco. Bene, lei è la proprietaria? È la proprietaria? No, non sono la proprietaria. Bene, grazie Maria Luisa, appunto Bucinasco, allora il primo bar per celiaci. Linea alla regia, torneremo fra poco, grazie a Bruno Ghignone e Pierangelo Fanti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di senza glutine, di prodotti senza glutine, di mercato senza glutine. Sentiamo Luca dalla provincia di Perugia. Buongiorno Luca. Buongiorno, volevo dirle, dunque, tra i consumatori c'è quello che si informa e quello che non si informa. Molti ben informati sanno che le paste alimentari, quelle che troviamo negli scaffali dei nostri supermercati, non sono poi una cosa molto schietta, insomma le farine sono trattate, quindi forse si buttano molti neanche sul biologico, ma per essere sicuri su queste paste particolari per... Bene, sì. Che siano senza glutine, lei vuol dire senza glutine senza problemi. Senza benissimo. Glutine, ecco, certo. Per essere proprio sicuri che vanno su una pasta sicura. Bene. Poi io volevo dirle, qualche volta potrebbe parlare anche di aromi artificiali, tipo l'aroma di fresco messo nelle insalate, quelle di quarta gamma, terza gamma, come le chiamano negli Stati Uniti. Guardi, in passato abbiamo parlato di aromi artificiali, non, questi della, appunto delle insalate non ne avevamo trattato, magari potremmo anche tornare sull'argomento. Grazie del, così, dell'input. Ma abbiamo parlato di paste, questo radioascoltatore ha parlato di paste e noi abbiamo Francesco Piccirilli della Valle Roveto Gluten Free, un'azienda che produce pasta. Voglio chiedere a Piccirilli, voglio tornare sull'argomento prezzo, perché costano così care a molti radioascoltatori, anche molti SMS dicono i prodotti gluten free. Buongiorno a tutti. Allora niente, io ho ascoltato l'intervento dell'ascoltatore. Beh, allora innanzitutto rispondo alla tua domanda. I prezzi sono ovviamente dei prezzi più alti perché le materie prime di per sé costano di più. Noi usiamo delle miscele di farine ovviamente italiane che hanno un costo molto più alto della classica semola di grano duro che viene utilizzata per i pastifici convenzionali, e quindi ovviamente il prezzo finale è giustificato per questo. E poi volevo un attimo allacciarmi a quel discorso che faceva l'intervento, sì, di prima. Certo. Noi come pastificio della Valle Roveto Gluten Free, quindi esclusivamente senza glutine, utilizziamo e garantiamo delle materie prime italiane, dove non ci sono assolutamente aggiunte gli additivi per magari migliorare l'appetibilità o la cottura. Esclusivamente quindi farina e acqua, null'altro. Va bene, grazie. Rimangono i Piccirilli. Ma devo dire che tra tante le cose, cioè, curiose che uno non si aspetta, parlando di senza glutine, c'è la birra. Bene, esiste addirittura un'associazione dei degustatori birra senza glutine. Buongiorno ad Alfonso Dal Forno. Buongiorno Alfonso. Buongiorno Davide. Allora, mi spieghi, cioè, la birra senza glutine? Sì, allora, la birra senza glutine è una realtà ormai presente sul mercato anche con picchi di qualità. Ci sono due tendenze, quelle che permettono la realizzazione di birra senza glutine con materie prime naturalmente prive di glutine, quindi riso, miglio, grano saraceno, mais, quinoa, e invece quelle che utilizzano il malto d'orzo che contiene glutine in origine, ma vengono prodotte e quindi deglutinate durante il processo con delle tecniche molto specifiche che riescono ad abbassare il limite del glutine al di sotto di 20 ppm. Ecco, sono tante, perché addirittura esisti come associazione degustatori birre senza glutine, quindi sicuramente sono tantissime le birre, immagino, allora a sto punto. Allora, le birre sono tante, dico tra le altre cose che in questo momento stiamo svolgendo un campionato mondiale di birre senza glutine proprio in questi momenti a Brescia in occasione del Gluten Free Expo, e abbiamo 23 birre partecipanti che arrivano da ogni parte del mondo. In Italia abbiamo una quindicina di referenze e la cosa interessante è è la prospettiva futura di questo settore, che sta prendendo una piega veramente molto interessante, come dicevo prima, se si guarda al senza glutine come un fattore qualitativo aggiunto al prodotto, piuttosto che parlare di questo prodotto come dedicato semplicemente a una categoria, che è quella dei celiaci, a cui appartengo. Quindi è un prodotto di grande qualità. Bene, sentiamo Giovanni da Vicenza. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei, io faccio il medico di medicina generale, mi occupo anche di gastroenterologia e di medicina dello sport. Credo che la celiachia sia un laboratorio straordinario per aprire, come posso dire, una sintesi fra quelli che sono aspetti rigorosamente medici ed altri che sono invece tipicamente di tipo gastronomico. Sulle intolleranze alimentari, per esempio, c'è un po' di tutto, è un buco nero dell'allergologia tradizionale. In parte in questo si sono inserite dei test di intolleranza che in realtà non sono così attendibili dal punto di vista scientifico. Mi spiego meglio: se si mangia una zuppa di legumi e c'è il classico gonfiore di pancia, sono semplicemente i fagioli e i piselli che fanno il lavoro di piselli e di fagioli, e non certo un'intolleranza al fagiolo o al pisello. Spesso viene contrabbandato un'intolleranza al lattosio togliendo semplicemente dalla dieta il latte e i derivati, il paziente ovviamente cala di peso, si dice: ecco, ingrassavi perché eri intollerante al lattosio e ai derivati. No, è calato di peso perché è stato tolto è stato tolto semplicemente un apporto calorico di latte e derivati. Ci sono degli altri aspetti che però coinvolgono sempre l'allergologia tradizionale. Ecco, io che... la fermo, dottore, perché sì. Io l'ho detto all'inizio, cioè volevo dare più un taglio, se vogliamo, di mercato, certo, sui prodotti, ecco. Perché qui andiamo in un campo veramente molto allargato con tesi opposte, quindi c'è un grande dibattito. Quindi io preferirei, diciamo, distogliermi da questo dibattito. E quindi la ringrazio del suo intervento, però diciamo che voglio tornare un po', diciamo, sull'argomento base. Sentiamo Silvano da Bolzano. Buongiorno Silvano. Buongiorno, io volevo solo dire una cosa. Io sono un cuoco e sono 40 anni che faccio il cuoco ormai, e ultimamente mi è sempre capitato, sempre più spesso, di gente che veniva da mangiare e chiedeva prodotti che erano intolleranti. Però in una cucina normale l'intolleranza è un po' un problema, perché noi lavoriamo la pasta, facciamo tante cose con le farine, sarebbe un po' un controsenso. No, certo, ma sono nati, diciamo che l'Associazione Italiana Celiaci ha un numero consistente di ristoranti, diciamo, ad hoc su questo. Prima c'era Ghignone in linea, il produttore di Tantì, che anche lui ha dei ristoranti, quindi i ristoranti stanno crescendo, ce ne sono molti che vanno proprio incontro a questa esigenza, ma avrei dovuto parlare di ristoranti, di gelaterie, di pizzerie. Il tempo è quello che è, ho preferito andare sui prodotti, quindi di parlare un po' di questo argomento, ma magari in altra occasione si potrà parlare anche di pizza, si potrà parlare di ristoranti, di trattorie, appunto, che rientrano in, diciamo, che sono riconosciuti dall'Associazione Italiana Celiaci, appunto, con i controlli fatti. Io per ora chiudo questa trasmissione, questo giro. Ringrazio i collaboratori, ringrazio redazione Isotta Shen, Giorgio De Luca, e in regia il nostro amico in regia che mi sta guardando, perché per Carmelo che devo chiudere, perché mi sta guardando che devo chiudere. Bene, buon weekend a tutti da Davide Paolini.